Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, ultima puntata dello speciale che questa settimana stiamo dedicando al tema delle smart road, delle strade intelligenti che accoglieranno i veicoli a guida autonoma che ormai si apprestano a sbarcare sul mercato. Questo nuovo scenario, come abbiamo anticipato, crea una infinità di problemi legali non facili da risolvere, e proprio di questo ci occuperemo stasera. Per parlarcene c'è con noi in linea Amedeo Santosuosso, che è esperto di diritto in nuove tecnologie, direttore scientifico del centro di ricerca ECLT presso l'Università di Pavia, dove è anche docente. Buonasera, buonasera Santosuosso. Buonasera, buonasera. Allora, veicoli a guida autonoma, con tutto quello che questo implica dal punto di vista anche dell'infrastruttura intelligente che deve stargli intorno. In questo momento c'è qualcosa che si sta facendo in Europa? C'è qualche punto di riferimento? Ma punti di riferimento, c'è un recente rapporto del Parlamento europeo che si occupa della robotica e che qua e là parla anche di questa cosa, ma fondamentalmente diciamo che questi sistemi intelligenti richiederebbero anche un diritto intelligente corrispondente che ancora non si vede. Per quanto riguarda le macchine in senso preciso e specifico, c'è un problema che tutta la legislazione presuppone che la macchina sia guidata da un umano, che è esattamente quello che non accade, come sai. Esatto. Quindi salta il presupposto principale di tutta la normativa intorno alla circolazione dei mezzi per strada. Ecco, senta, ma se in Italia si verificasse lo stesso incidente che si è verificato quest'estate in California, per cui è morta una persona investita da una di queste auto mentre stava in modalità semi-autonoma, non è un vero veicolo autonomo, si trattava di una di quelle auto che però in autostrada sono in grado anche di fare sorpassi e cose di questo genere. Succedesse in Italia, come andrebbe a finire? Ma la responsabilità sarebbe sicuramente del guidatore o di quello che avrebbe dovuto essere il guidatore, e credo che l'assicurazione non coprirebbe questo danno, perché si tratta di un rischio non assicurato, in quanto l'assicurazione allo stato della legislazione copre solamente i rischi derivanti dalla guida da parte di un umano di un veicolo. Ecco, ricordiamoci che poi al di là dell'aspetto assicurativo c'è anche l'aspetto penale in questi casi, se qualcuno insomma si fa male o addirittura ci lascia le penne. Ecco, quindi l'aspetto penale secondo me c'entra con l'informazione che eventualmente gli acquirenti di un certo tipo di automobile semi autonoma hanno ricevuto e sulle precauzioni che sono state consigliate. Ecco, comunque chi è alla guida oggi sarebbe eventualmente responsabile, temo, anche in termini penali, o sbaglio? Ecco, senta, adesso c'è la necessità quindi di regolare questo scenario, ma intanto di sperimentarlo, no? E qui come ci si comporta in questa fase di sperimentazione? Ma a mio avviso, così come si fa la sperimentazione di tipo tecnologico, va fatta anche una sperimentazione di tipo giuridico. D'altra parte il quadro della California è esattamente il quadro di uno Stato che ha introdotto una legislazione che consente i test sui veicoli autonomi. E d'altra parte l'evoluzione tecnologica sicuramente richiederà più di un adattamento del sistema delle regole. Quindi, però, quindi regole temporanee, questo mi sembra importante, no? Cioè si fa una legge che dice su quel tratto autostradale lì valgono temporaneamente queste regole diverse e alternative. Esatto, con l'attenzione che queste regole temporanee devono comunque prevedere la copertura dei danni che eventualmente, malauguratamente, si dovessero verificare. Finito il periodo di durata della legge, finisce la copertura legislativa, normativa della sperimentazione, e se si vuole continuare è necessario rimodulare il progetto sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista giuridico. Un altro dei problemi che emergono diciamo con la diffusione di queste self-driving car, ma anche di tutta l'infrastruttura intelligente di cui abbiamo parlato anche negli giorni scorsi, è legato alla privacy. Ma è un veicolo autonomo è un veicolo che processa un'enorme quantità di dati che riguardano l'ambiente circostante, il rapporto con il sistema intelligente nel quale si colloca, e allora è necessario che questi dati, trattenuti dal veicolo o riportati al sistema intelligente siano conservati per il tempo strettamente necessario e quindi non devono risultare targhe di automobili, persone riconoscibili sulle altre. Cioè, mentre l'automobile circola, lei dice, questa vede per esempio delle altre automobili, potrebbe registrarne delle targhe o riconoscere le persone che incontra per strada. Cioè, non è solo una questione di proteggere la privacy di chi sta usando il mezzo, ma di tutti quelli che gli stanno intorno. Esatto, questo è il problema. Perché il mezzo è un'entità capace di elaborare una grandissima quantità di dati e quindi è un problema tecnicamente facile da risolvere. Basta fare delle scelte precise su cosa deve essere memorizzato e per quanto tempo. Grazie professor Santosuosso. Grazie a voi, buone cose. È tutto anche per questa sera. Vi ricordo che lo speciale sulle strade intelligenti è anche online. Lo trovate sulle pagine del sito di Radio 24. A voi tutti, buona serata e buon fine settimana. Scoprite come guidare il tempo verso il futuro su audinnovative.it. Future Needs Stories.